La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi e 58-59, insomma siamo ai 31 minuti, qui in diretta agli studi di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia come sempre per l'ascolto, in diretta in podcast. Vi ricorda l'indirizzo, perché avete visto che abbiamo ripreso a fare trasmissioni, soprattutto delle città in cui si vota, in cui ci segnalate problemi. E magari la maniera alternativa per occuparsi del voto che si avvicina, sarà domenica 5 giugno, è quello di occuparsi dei problemi con le vostre segnalazioni nelle città in cui si vota, piuttosto che ascoltare solo i candidati sindaco. Ma detto questo, vi dico subito invece, il tema della giornata è un candidato sindaco, però c'è una ragione particolare che mi ha scelto a fare questa... che mi ha indotto, perdonate, a fare questa scelta, perché è un candidato sindaco che appartiene a una forza rispetto alla quale c'è, non a mio giudizio, lo comprova l'esame comparato dell'attenzione data dai media, cioè i metri di colonne sui giornali e il minutaggio nel sistema radiotelevisivo, nei confronti della cui forza di appartenenza c'è un atteggiamento di, non voglio parlare di oscuramento, ma insomma non di mancata presenza proprio, ecco. E infatti per questa ragione, per l'opinione che ho di questa piccola forza politica, però nella storia italiana ha dato un grandissimo contributo non solo a estendere i diritti civili, ma perché minoritariamente ha sempre rappresentato una maniera alternativa di fare politica, cioè occupandosi di problemi senza soldi pubblici, nella misura in cui non erano quelli che andavano alla radio che ha animato, state capendo che sto parlando dei radicali, anche oggi è presente in alcune città, e quindi ho per questo deciso, per riequilibrare la disattenzione generale, di fare uno strappo alla posizione che teniamo qui alla versione di Oscar il pomeriggio, perché i candidati sindaci li sentiamo la mattina a rotazione nella trasmissione Attenti alle 2 con Alessandro Milan, ma il pomeriggio ci eravamo detti diteci dei problemi da segnalare nelle città, come abbiamo fatto ieri appunto per il traffico a Milano con il comandante dei vigili urbani di Milano. Tra l'altro ringrazio tutti coloro che hanno scritto una caterva di lettere, io mi sono sforzato di rispondere ieri e stamattina, perché molti di voi hanno detto ho capito Giannino, però tu hai risolto il problema solo a chi hai portato in trasmissione, e il comandante dei vigili gli ha dato ragione, eccetera eccetera. Adesso io manderò a tutti coloro che mi hanno chiesto, mandandomi le segnalazioni del caso in cui si ritengono di avere ragione rispetto alle multe irrogate, le manderò all'attenzione del comandante dei vigili urbani di Milano. Non posso garantire che naturalmente l'effetto sia lo stesso, perché ieri avete sentito il comandante dei vigili dire no, abbiamo esaminato il caso, però qui ha ragione Luca Vagli, il nostro ospite era il conducente di auto disabile che improvvisamente aveva visto fiorire le multe malgrado la regolarità del suo tagliando sulla sua automobile. Quindi impegno che prendo è quello di girarlo, naturalmente sull'esito non posso dire nulla, perché non credo proprio di aver riconosciuto il potere di annullarvi le multe. Allora, fatemi fare ancora un'osservazione prima di presentare l'ospite, perché stamattina abbiamo avuto la conferma ufficiale da parte della direzione generale della RAI che nella prossima programmazione dell'azienda pubblica radiotelevisiva saltano le trasmissioni giornalistiche condotte da Massimo Giannini e da Nicola Porro. Ecco, io considero questa decisione una decisione che ci impoverisce tutti. E ho anche fatto un tweet in cui ho detto che con l'epurazione di Massimo Giannini e Nicola Porro, la RAI, di cui ricordiamoci tutti, tutti parliamo del canone in bolletta che si paga a luglio, ma in realtà l'unica vera grande modifica, no, che c'è stata ordinamentale con questo governo è stata la legge che ha attribuito al governo direttamente il pieno potere sull'azienda, visto che a nominare il direttore generale amministratore delegato dotato di pieni poteri con il nuovo ordinamento, con la riforma che è stata approvata sotto questo governo, patrocinata da questo governo, Campo Dall'Orto è il capo azienda scelto da questo governo, in effetti il governo si è impadronito della RAI come mai era successo nella storia repubblicana prima, e se lo avesse fatto chiunque altro si sarebbero alzate enorme pire di fuoco, per così dire. Detto questo, con questa epurazione, secondo me facciamo un grande passo indietro. Non me l'aspettavo, cioè erano ormai 2 mesi che si sapeva, ma prima non me l'aspettavo. Mi sorprende molto negativamente dal punto di vista dell'equilibrio dell'informazione, perché considero, con i loro diversi punti di vista e la loro maniera diversa di condurre le trasmissioni, Massimo Giannini e Nicola Porro, due straordinari colleghi che hanno enormemente arricchito l'offerta televisiva con la loro conduzione e le loro trasmissioni. Certo, criticavano il governo, non erano sulla piena linea del governo, però se questo diventa il criterio della RAI controllata dal governo con la nuova riforma, facciamo tutti un enorme passo indietro. Io ho addirittura scritto, lo ripeto da questi microfoni, è una decisione che fa sembrare addirittura il Berlusconi, quello dell'editto bulgaro, ve lo ricordate, come uno sfrenato pluralista. Cioè, non mi piace per niente questa decisione. Detto tutto questo, allora, chi è il nostro ospite oggi? È il candidato sindaco a Milano, appunto, per la lista dei radicali, federalisti, laici, ecologisti, la lista radicale, che ha come candidato sindaco, dopo aver regolarmente raccolto le firme prescritte, Marco Cappato. Grazie di essere con noi, Marco. Grazie a te, Oscar, e un saluto agli ascoltatori. Allora, io comincerei dal caso che oggi naturalmente è su tutti i giornali, poi ti interrogo un po' su quali sono le tue intenzioni per questa vicenda della sindacatura milanese. Però tu hai presentato tre esposti, quindi non solo all'autorità giudiziaria, ma anche all'ANAC. L'autorità della concorrenza. Esatto, e all'ANAC. Perché rilanciando una obiezione alla legittimità della candidatura di Sala, Giuseppe Sala, il candidato del PD a sindaco di Milano, sostieni che in realtà è tutta da accertare la legittimità, perché risulterebbe che il candidato sindaco Sala non si è dimesso come doveva fare nei tempi giusti per potersi candidare da una carica governativa, cioè quella di commissario di Expo. Ieri a questo la presidenza del Consiglio ha risposto dicendo: ma neanche per idea, le sue dimissioni sono protocollate il 18 di gennaio. Ma tu dici no, questa replica della presidenza del Consiglio non chiarisce nulla. Ci vuoi spiegare, agli ascoltatori la fondatezza della tua obiezione? Beh, intanto, al contrario di Stefano Parisi, principale competitore di Sala, che ha detto: vabbè, ma i milanesi non interessano queste cose, io francamente penso che il rispetto delle regole sia importante, e quindi l'ho fatto con Formigoni, e infatti con le firme false di Formigoni hanno annullato le elezioni regionali del 2010. È chiaro che lo faccio non contro una parte politica o un'altra, come radicali lo facciamo, con Lipparini l'abbiamo fatto, per quanto riguarda tutti. Allora, qui il problema è che questa precisazione del governo non precisa nulla, perché la precisazione del governo riguarda una data, il 18 gennaio, quando noi abbiamo in mano, l'abbiamo reso pubblico, un documento che è un documento ufficiale di un bilancio, di un rendiconto Expo, firmato dal commissario Sala, datato il 3 febbraio. Allora, questo non vuol dire quindi che Sala di per sé non è candidabile, non è eleggibile, però vuol dire che la difesa che è stata scelta finora affidandola a questa fonte di Palazzo Chigi è una difesa che non difende nulla. E quindi bisogna accertare, siccome il processo elettorale in questo strano paese che è l'Italia può essere accertato solo dopo la proclamazione degli eletti, si può fare ricorso su una elezione, allora noi chiediamo a queste autorità, che invece possono agire subito, di muoversi per accertare la verità, che, e poi ne possiamo parlare più con calma, riguarda anche l'attuale ruolo di Sala, che è consigliere d'amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti, che è un enorme ente pubblico con partecipazione delle fondazioni bancarie, che tuttora gestisce molte cose a Milano, affari con Expo, con i debiti della città metropolitana, è socio di minoranza attraverso il fondo F2I degli aeroporti di Milano. Ma scusami, tu sei candidato a sindaco di Milano già in campagna elettorale e non ti dimetti dal consiglio d'amministrazione di un ente azienda che ha tutto questo intreccio economico con le istituzioni milanesi e lombarde. Io credo che farebbe bene alla sua stessa candidatura, Sala, se rimuovesse questo ostacolo, che non è ipotetico o affidato alle carte, ma che è nei fatti questo ostacolo alla sua campagna elettorale. Dopodiché la nostra posizione è di sciogliere alla radice questi intrecci tra carrozzoni pubblici e potere politico, carrozzoni anche privati e potere politico, tagliando nettamente con leggi sulle pubblicità dei bilanci, i conflitti di interesse, ma anche le privatizzazioni e le liberalizzazioni, separando nettamente il ruolo delle istituzioni e dello Stato da quello dell'economia, che deve essere del mercato e dell'impresa e degli imprenditori. Allora vedremo, naturalmente, speriamo che ci siano delle risposte rapide a questi esposti che hai presentato, ma andiamo su un punto, iniziamo con la politica, perché non ti svelo niente di nuovo, però i nostri ascoltatori sono oramai negli anni, hanno iniziato anni fa, ma continuano a ragionare in termini maggioritari, per così dire, ipermaggioritari. Questo non significa che poi non ci sia una pluralità di liste al primo turno, però quello che si vede dai sondaggi e anche dai risultati elettorali nelle diverse consultazioni è che poi scelgono tra coloro che hanno maggiori chance. C'è un voto che si distribuisce anche alle forze politiche e culturali minori, ma insomma il più dei voti va a chi ottiene poi, anche per questa ragione, cioè i sondaggi, il più dell'attenzione dei media. E quindi, come ho detto all'inizio, tu l'attenzione dei media non ce l'hai per questa stessa ragione. Allora, provi a spiegare ai milanesi perché, data questa premessa, vale la pena, secondo te, per questo ti sei candidato, considerare l'ipotesi di dare un voto a una posizione minoritaria fuori dal grande gioco dei ballottaggi secondo i sondaggi oggi. E in più, te la metto subito così fai un discorso più completo, ma in caso poi di ballottaggi, a quali eventuali candidati chiederesti in secondo turno a chi ha votato i radicali di dare il proprio consenso? Ma noi radicali siamo gli unici che fanno quello che devono fare, cioè che ritengono giusto fare, indipendentemente dal fatto di avere potere o no. Oggi i radicali non sono in Parlamento, non sono nei consigli regionali da nessuna parte, eppure portano avanti delle lotte. E credo che se noi chiedessimo agli stessi radioascoltatori che cosa si ricordano che la politica ha realizzato, beh, si ricorderebbero nella gran parte dei casi alcune delle grandi battaglie nostre, no? Che si riconoscono al passato, ma mai al presente e al futuro. E allora a Milano noi abbiamo un progetto che è referendario sul modello svizzero, dove i referendum locali contano, per fare decidere direttamente ai cittadini sulla conversione ecologica e sociale degli investimenti comunali. Cosa significa? Smetterla di avere 2 miliardi di euro bloccati in settori come aeroporti, strade, energia, che possono tranquillamente essere affidate al mercato dei capitali privati, e utilizzare quelle risorse in parte per abbassare il debito e con le liberalizzazioni per abbassare le tasse, e in parte per investire sulla necessaria trasformazione ecologica della città. A Milano sono 5.000 morti all'anno, secondo i dati del Ministero dell'Ambiente, sull'inquinamento atmosferico. E sociale, perché c'è una domanda di alloggi sociali e c'è al tempo stesso una grande quantità di invenduto immobiliare commerciale che quindi, con un intervento anche pubblico, può essere, e privato, può essere convertita in alloggi. Quindi la ragione è: noi questa battaglia la facciamo, dipende da voi, almeno al primo turno, se la faremo con una forza in più o in meno. Sul discorso del maggioritario, state attenti a non farvi fregare, perché l'unica forza politica che con il referendum dall'inizio degli anni 90 propone un sistema davvero maggioritario all'anglosassone, dove contano cioè i candidati nel collegio elettorale, siamo noi. Questi non sono sistemi maggioritari, questi sono sistemi proporzionali dove comandano i partiti, sono i partiti che decidono le liste, gli spazi in televisione, vi fanno credere di votare il Presidente del Consiglio, magari avete votato Bersani e c'è Renzi, o avevate votato Prodi e poi c'era D'Alema o Berlusconi, insomma è un sistema falsamente maggioritario che dà tutto il potere in mano ai partiti. Noi crediamo nel sistema anglosassone americano, per il quale però bisogna fare delle riforme, non basta dire votate i grossi, perché i grossi semplicemente sono più grossi, sono più potenti, non che i piccoli poi di per sé siano più onesti e vadano bene, ma è proprio un inganno, un'illusione ottica dalla quale come radicali vi proponiamo di uscire anche dal voto delle città. Io sono candidato a sindaco a Milano con la lista radicale, a Roma con la lista capitanata da Riccardo Maggi appoggiamo Giachetti, che è anche un iscritto al Partito Radicale, sperando che abbia la forza di rompere. E qui a Milano per l'eventuale secondo turno? I nostri elettori, essendo, come spero voi che ascoltate, elettori d'opinione, nel senso che noi non abbiamo clientele da muovere, i nostri elettori non votano quello che dice Cappato. Allora io cosa farò? Metteremo sul tavolo quel grande progetto referendario liberale ed ecologico e diremo ai due che, se non saremo noi, ma realisticamente saranno arrivati al ballottaggio, impegnatevi voi, se lo volete, se ne siete convinti, su questo progetto liberale e fatelo sapere agli elettori. In maniera che si possano regolare. Mi sembra una posizione trasparente. Consentimi di dire due cose, perché adesso dobbiamo andare nella sospensione di un minuto e poi riprendiamo per il traffico. Caro ascoltatore, io sposo integralmente quello che ha detto Marco Cappato sulla questione della legge elettorale. L'Italicum, che è connesso, anche se non sarà su questo che vi pronuncerete, ci pronunceremo tutti a ottobre nel referendum sulla Costituzione, ma è collegato, fa parte del pacchetto, è in realtà una legge proporzionale a premio di maggioranza di 340, ma questo è, e non è il maggioritario, né di tipo uninominale britannico, né col doppio turno francese. E un'altra cosa è, con i 100 capilista bloccati che si possono candidare in 10 collegi, quindi scelti tutti di diretta emanazione dei capi partito, e i restanti 240, visto che chi vince poi il ballottaggio o vince il primo turno, cioè 340 deputati, no? Siamo al monocameralismo, se passa la riforma della Costituzione, o meglio c'è un Senato che non dà la fiducia, ma resta anche il Senato, ma è di secondo turno di rappresentanza, scusate, di secondo grado. Ma detto questo, i 100 sono scelti personalmente dal capo partito. Dei 240, dopo il capolista, i primi in ordine di lista saranno scelti comunque dai capi partito. Quindi i capi partito sceglieranno personalmente i più di quei 340. Ecco, questo con il collegio nominale non avviene, come evidente, perché bisogna disegnare candidati che incontrino il più possibile il favore degli elettori di quella particolare collegio. Quindi è proprio un sistema partitico questa roba qua. L'uninominale che hanno in mente gli uninominalisti maggioritari veri è di tutt'altro tipo. Quindi la considerazione che ha fatto Cappato è una considerazione molto fondata, sia storicamente che alla luce del, purtroppo, la storia partitica italiana. Ci sentiamo tra un minuto. Io voglio tornare su questa faccenda dei referendum, perché voglio fare una domanda a Cappato che, per chi la pensa come me, è molto importante, spero anche per molti dei miei ascoltatori qui. A tra un minuto. La versione di Oscar. Allora, risposta subito ai ascoltatori che invocano la par condicio e candidato sindaco. La par condicio non si fa in ogni trasmissione con tutti i candidati, cioè la radio distribuisce con attenzione scrupolosa ovviamente i diversi candidati nelle maggiori città, non possono essere tutti in tutte le maggiori città, quindi tra le famiglie politiche di appartenenza dei diversi maggiori candidati. Ricordo a tutti gli ascoltatori di Radio 24 che Sala è stato già due volte ospite di Minoli, la trasmissione di Minoli, nel corso dell'ultimo mese. Una volta abbiamo sentito Stefano Parisi, la mattina io e Alessandro Milan, quindi come vedete e questo criterio viene seguito dalla radio anche per i candidati sindaci di diversa appartenenza e quindi espressione nelle maggiori città italiane. State attenti a non dimenticare che qui abbiamo chi ci ha il fucile puntato contro i conduttori e gli assistenti che fanno le trasmissioni per rispettare la legge, ve lo possiamo garantire, perché ci sono multe e naturalmente verrebbero da me poi a fare toc toc, paga tu. Secondo, un grazie a Giuseppe da Lucerna che manda l'SMS dicendo: in Svizzera il Partito Liberale Radicale è al governo ed è il secondo più votato, ce n'è disperato bisogno anche in Italia. Giuseppe, tu purtroppo sei a Lucerna. Allora, domanda per Marco Cappato. Sappiamo che in Costituzione il referendum in materia tributaria, di tasse, per questo è delicato, visto come la penso io sono un antitassaiolo, e ricordo che a Milano dal 2010 a oggi la pressione locale su dati presentati da Solombarda ieri, purtroppo non era stato invitato Capace tanto per cambiare, ma nell'incontro dei candidati sindaci, su un'impresa manifatturiera media, quindi capannone di 5.000 metri quadrati, l'aumento della pressione locale milanese è stata del 196%, l'aumento su un ufficio terziario tipo 500 metri quadrati del 204%, cioè in questi anni a Milano il taglio dei trasferimenti da Roma è stato più che coperto dall'aumento delle sovraliquote locali, mentre la spesa corrente saliva. E per darvi un'idea, invece, sul preventivo 2016 la spesa per investimenti diminuisce del 40%, ovviamente poi se la caverà chi viene dopo sindaco. Ma domanda, in Costituzione sono proibite, Marco, i referendum in materia tributaria, ma nelle città, negli statuti delle città, si possono fare questi referendum e voi sareste favorevoli a farli, vista la pressione fiscale milanese? Si può fare e io ho proposto di farle. Quando in Comune a Milano si è discusso la riforma dello statuto, perché abbiamo introdotto il referendum vincolante comunale, quindi non più solo consultivo come quelli che avevamo vinto nel 2011, ma vincolante, io avevo proposto di eliminare un divieto di referendum su tariffe e tributi e tutti quanti sono stati contro. Perché? Perché si ha l'idea che il cittadino per forza, siccome è contro le tasse, demagogicamente è contro qualsiasi tassa. In realtà l'esperienza svizzera dimostra che se il responsabile politico riesce a indicare chiaramente e con credibilità l'utilizzo che fa di quelle risorse, in Svizzera sono stati vinti referendum sull'aumento del prezzo della benzina, ma vincolato a operazioni a scopi dichiarati, non discrezionali, non per dare più soldi discrezionali in mani della politica, è così. No, e per avere quindi delle politiche che si possono avere efficaci sul piano ambientale, eccetera. Quindi questa è una strada che i comuni possono scegliere, perché uno dei problemi di questi anni è stato che, sì, certo, sono aumentate le imposte anche in ragione di un taglio dei trasferimenti. Allora, la mia posizione non è che il taglio è giusto o è sbagliato, la mia posizione è che il comune dovrebbe avere autonomia fiscale rispetto alle questioni delle quali si occupa direttamente e non dovrebbe dipendere dalle addizionali di tasse nazionali come l'IRPEF o cose del genere. Quindi questa dovrebbe essere l'autonomia di federalismo fiscale municipale che si può realizzare anche a partire dall'attivazione dei referendum. Allora, che è una buona ragione questa di lottare nei consigli comunali per statuti che consentano a noi tutti di esprimerci su tariffe e tributi. Guardate che gli altri questa roba qua non la propongono. Io mi limito a suggerirvi questo, poi ognuno libero di votare come vuole. Io ringrazio Marco Cappato, mi auguro che altri colleghi in altre testate diano un po' di giusto spazio anche alla presenza dei radicali e non continuino a ignorarlo come fanno le televisioni nazionali. Continuate sulla 24, appuntamento alle 8:15 domani mattina con me, Alessandro Minella, Tentine 2.